Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Big World, questa è la puntata numero 14 di A tavola con Fabiola, io sono Fabiola e qui a Radio Big World. La ricetta di oggi è cannelloni al tofu, ingredienti per 4 persone. Farina tipo 0 200 g, olio di semi di sesamo 2 cucchiai, acqua tiepida, sale quanto basta. Per il ripieno, funghi freschi 200 g, spinaci 500 g, tofu 100 g, una carota, olio di semi di sesamo 2 cucchiai, sale quanto basta. Preparazione. Setacciate la farina, mettete al centro il sale e 2 cucchiai d'acqua. Impastate e lavorate fino a lasciare l'impasto liscio e setoso. Lasciate riposare in un canovaccio per 30 minuti. Lavate e tritate cipolla e carota. Pulite i funghi e tritateli e mondate bene gli spinaci. In un tegame con l'olio fate appassire la cipolla. Aggiungete la carota e dopo 3 minuti i funghi e il tofu tritati. Versate mezzo bicchiere di acqua. Aggiungete un pizzico di sale e continuate la cottura a fuoco moderato per 20 minuti. Pochi minuti prima della fine della cottura aggiungete gli spinaci. Dopo tolta dal fuoco, tritate ancora finemente la verdura. Stendete la pasta con un mattarello e dividetela a quadrati di 8 cm circa. Fateli scottare in pentola con abbondante acqua salata, dunque scolateli e stendeteli sopra un canovaccio. Quando saranno freddi, mettete un po' di composto sopra ogni quadrato. Arrotolateli e formate i cannelloni. In una perofila unta disponete i cannelloni. Versate sui cannelloni una salsa preparata con farina, brodo vegetale, sale e noce moscata. Dunque infornate. Cuocete i cannelloni per 15 minuti a 180 gradi. Serviteli caldi, spruzzandoli con erba cipollina e prezzemolo. Il vino consigliato per questi cannelloni è il Grignolino del Piemonte, servito a 17 gradi. Oppure un Merlot del Friuli, servito a 15 gradi. Buon appetito, questa era la ricetta numero 14, qui a tavola con Fabiola. Io sono Fabiola, qui a Radio Big World. Alla prossima!